Rappresento con i beats e il flow, il suono dell'hip hop, dalle strade fino ai palchi da show. Se mi vuoi così mi avrai, ok? BGZ. Sto seguendo un sogno ma non guardo in alto, il portico del sogno è stare fermo e mi rimbomba intorno. Non son fiero di essere un b-boy ma un uomo, son questo b-boy perché son quest'uomo. Applico metrico, sopra beat da palcoscenico, elastico come il suono di un bel groove quando sopra ci cazzeggio. Aspetto eventi speciali per persone speciali, con invitati speciali in trasferta con la clica per la connection coi matti. Senti come suona l'unione di queste quattro menti, ci sei io, fatti sentire però, ti porta a fare un giro nei meandri del mio show. C'è chi ha il pane e non ha i denti, c'è chi ha il flow ma non sa scrivere pezzi, ayo. Cerca il flow e comprati due penne nuove, rossa per gli errori e quella blu. Ho un suono perfetto dentro l'asfalto, sono gemme di notte che prendo e notti che non dormo. Hanno sepolto il beat sotto le chiacchiere, pensano facile, pensano e facere nudo. Andiamo, fai il serio, scarpina. Quali percorsi? Qua son corse per fiaschi. Cammina, che minime brine sui solchi dei dischi, su fogli diversi, collassi. Io sto inseguendo un sogno e devo farne un disco, lo farò per voi più che per me, perché siete voi che mi datemi, fate andare forza, BG. La conoscenza torna al suono delle radici di B. Dirò tutto questa volta, non ho scelta, una lancetta mi sorride e poi mi mette fretta. Sui calendari niente X, non c'è tempo di me. Segnarsi gli errori come tagli sui beat. Cicatrici come i giorni che si fanno, mese in quattro e quattro amici che in un giorno per un mese fanno. Che fanno? Si fanno per farsi combattere, sono disperati. Nord e people fight.